GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Come avete sentito, dunque, il Parlamento di Nicosia ha respinto il provvedimento sul prelievo forzoso dai conti correnti dell'isola. L'Eurogruppo ha però ribadito la propria offerta per aiutare Cipro. Si rincorrono intanto le dichiarazioni dei ministri e dei parlamentari europei. Il presidente del Parlamento, il tedesco Schulz, ha ribadito questa mattina che a Cipro non va imposto un fardello ingiusto, soprattutto ha detto non va scaricato sulle spalle della gente comune e delle piccole imprese. Ma insomma, a conti fatti, il caso poteva essere trattato diversamente, gestito in maniera diversa, e l'Europa ha le sue responsabilità. Lo abbiamo chiesto innanzitutto a Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo, che risponde al microfono di Valeria De Rosa. L'Eurogruppo ha sbagliato nella sostanza e nella comunicazione. Si trattava di fare un accordo con il governo e con il Parlamento cipriota, che ha la sovranità, e soprattutto bisognava porla su questo termine: ci vuole una compartecipazione, ma la compartecipazione non può venire da parte dei cittadini che hanno un piccolo risparmio sui conti correnti. C'è un modo per uscire da questo impasse, c'è un modo immediato e c'è un modo, diciamo, più strutturale. Il modo immediato è evitare che il prelievo si faccia al di sotto dei 100.000 euro. Oggi è un modo strutturale di risolvere questi problemi ed è qui che si gioca la vera sfida europea, ed è mettere sotto supervisione tutte le 6.000 banche europee. Giovanni Pittella, lo ricordo, vicepresidente del Parlamento europeo, eletto con il Partito Democratico. Ancora e diversamente, direi, è Giovanni Lavia, europarlamentare del PDL, lo sentiamo. È stata gestita malissimo da Cipro, perché pensavano di poter fare tutto a mercati chiusi, si sono resi conto che non avevano una maggioranza, hanno fatto un pasticcio che dura una settimana, che è costata ai mercati europei, ai mercati finanziari, tantissimo. L'Europa gli aveva chiesto semplicemente di rimettere in ordine i conti. Siccome esiste uno squilibrio strutturale, bisognava fare alcune operazioni e non si poteva pensare che tutto venisse sostenuto da altri paesi europei. Cipro doveva fare la sua parte. Mi è sembrata una cosa con tanta improvvisazione, diciamo così. Sì, però mi pare che dalle sue parole l'improvvisazione venga imputata tutta a Cipro e nulla all'Europa. In buona parte a Cipro. L'Europa chiedeva delle misure. La scelta di fare quella tassazione chiesto dall'Europa per sbloccare i miliardi di aiuti. In termini di modalità attuative, poi doveva trovare una proposta cipriota. E questo era invece Giovanni Lavia, come avete sentito, europarlamentare, intervistato da Valeria De Rosa. Insomma, due punti di vista su una questione complessa che sta facendo discutere in queste ore l'Europa, oltre che sta facendo tremare le borse. Con questo noi abbiamo concluso. Fabio Cantadori in regia oggi, Gigi Donelli al microfono. L'appuntamento con GR Europa torna domani, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.